biblioteca è un posto democratico dove si cerca di mettere a disposizione di tutti gli strumenti per il sapere, per un sapere però civile, giusto, equo, pulito e non difforme, diciamo così, ecco, ma che, sì, che metta a disposizione di tutti i cittadini, ecco, la possibilità di costruire un percorso e che possa arricchire, ecco, chiunque faccia ingresso in una biblioteca. Ecco, questa è la nostra missione. Vogliamo che chiunque entri in una biblioteca si senta migliore frequentandola. E vi ringrazio quindi della vostra collaborazione e del vostro aiuto. Grazie a tutti voi e buona serata. Allora, siccome non sono un politico, posso dire sarò breve e terrò e manterrò fede a questa affermazione. Non vi illustro tanti meriti del relatore, ma vi ricordo, me li sono scritti per non dimenticarmi, numerosi volumi che dimostrano come un interesse non è sporadico ma è continuativo e come si occupa con passione agli argomenti, uno di quali sarà trattato stasera. Vi ricordo i titoli più importanti: I nemici della scienza, che è uno dei miei preferiti, Integralismi filosofici, religiosi e ambientalisti, Dedalo, editore, Il libro dei misteri svelati, Castelvecchi, Roma, Superstizione, istruzioni per l'uso, Pinocchio e la scienza, La falsa scienza, che sarà l'argomento di questa sera. Tra le cose in cui non si ricordano mai e tra le cose in cui lui può essere invidiato, quella per cui io lo invidio di più è una notizia che pochi sanno: gli è stato intestato un asteroide. Per i suoi meriti scientifici, un comitato di astronomi, eccetera, dopo che lui ha fatto una conferenza a, non mi ricordo più in che posto, l'Osservatorio Astronomico delle Montagne Pistoiese. E allora risulta che il 27 gennaio 2013 esiste un asteroide, l'asteroide 2006 TF7, in orbita tra Marte e Giove. Ecco, questa mi secca molto di non avere un asteroide. C'è sempre tempo. C'è, grazie, ma io non ne ho tanto. Posso fare un commento che ho già fatto personalmente? Una mia collega mi ha detto: non lo stare a dire troppo in giro, perché magari ti ci fanno pagare l'IMU. No, ma un'altra cosa che costerebbe. Di rimando, un altro mio collega mi ha detto: ma forse non è tanto l'IMU. Più che altro sarebbero onerose le spese di viaggio del geometra che deve fare il rilievo. Bene, siamo, ve lo sto per dare tutto intero, il Silvano Fuso. Quando mi ha chiesto di fare una recensione del suo libro, cosa che ho fatto volentieri perché è stato un godimento leggerlo, ho finito con una robina, quattro righe, che vi voglio leggere perché per me sono state veramente esilaranti. E chi di voi avrà il piacere e la voglia di leggerlo, è una roba che si capisce che è vera e che diverte moltissimo. Dico testualmente: assolutamente esilarante ho trovato l'inizio del capitolo dedicato a Charles Piazzi, o Piazzi, non so, e alle enigmatiche piramidi. In esso Silvano Fuso, giocando sapientemente con i numeri relativi alla sua data di nascita, al numero delle lettere della cittadina dove è nato, che si chiama Lugania, alla sua altezza, al numero delle scarpe, al rapporto tra le lettere del nome e quello del cognome ed altro ancora, dimostra in modo divertito e divertente l'esistenza di una correlazione strettissima tra lui stesso e le misteriose piramidi. Perché giocando con i numeri si può dire tutto, far tutto, calando meno questo, più quello. Quando io mi sono trovato a ridere, imboressato, come si dice in Veneto, perché era veramente esilarante questo qua. Con questo, con cui chiudo la mia recensione, chiudo anche le mie parole e prego Silvano di cominciare. Bene, grazie Giorgio. Il microfono serve? Ma sarebbe meglio. Ah, ecco, sì, allora ditemi voi, lo tengo in mano? No, mi sa che non è. Sarà da accendere forse? Sì, esatto, non è ancora. Di solito non viene via, no? Credo. È duro, esatto. La sentiamo. Di solito no. Forse qui è il tuo interruttore. Sì, esatto. Sì. Così funziona? Sì. Ok. Bene, buonasera a tutti, benvenuti, ben trovati, così numerosi. Io innanzitutto voglio ringraziare Giorgio, che è stato il principale artefice di questa iniziativa, quindi sapete con chi dovete prendervela se non rimarrete contenti. E ovviamente ringrazio la biblioteca che gentilmente ci ospita. Dunque, questa sera cercherò appunto di fare una chiacchierata sui contenuti del libro che è già stato presentato da Giorgio. Sia nel libro sia nel corso della chiacchierata di questa sera io farò, ho fatto e farò spesso uso di un'espressione. L'espressione è la seguente: scienza patologica. Questa espressione ha una paternità e una data di nascita ben precisa. Infatti venne introdotta esattamente il 18 dicembre 1953 durante una conferenza da questo signore che vedete raffigurato qua, che era un chimico e fisico statunitense di nome Irving Langmuir, il quale tra l'altro vinse il premio Nobel per la chimica nel 1932. Con questa espressione, scienza patologica, Langmuir indicava alcune vere e proprie fissazioni, potremmo dire, che alcuni ricercatori maturano così nel corso della loro carriera accademica e che diventano in qualche modo proprio delle ossessioni, nonostante queste idee, queste convinzioni vengano totalmente smentite dal resto della comunità scientifica. E praticamente tutto il libro io ho cercato di dedicarlo proprio a un esame così antologico, potremmo dire, di vari episodi di scienza patologica. Ora, come mai accadono questi episodi di scienza deviante all'interno della comunità scientifica? Beh, contrariamente a quello che forse comunemente si pensa, gli scienziati sono esseri umani normalissimi, con tutto il loro bagaglio di psicologia, di emotività, di debolezza, come qualsiasi altro essere umano. Quindi non è vero, no, come talvolta si pensa, che i ricercatori siano delle semplici macchine pensanti. Sono degli esseri umani, quindi inevitabilmente sono suscettibili, diciamo, a tutte quelle che sono le debolezze tipicamente umane. Per questo motivo capita, appunto, come dicevo, che alcuni ricercatori si convincano di certe idee che non trovano un riscontro in altri studi, in altre ricerche. In particolare a volte capita che si affezionino, no, a determinati dati sperimentali che credono di aver osservato, ma che in realtà sono frutto, diciamo, della loro errata percezione. E molto spesso capita che per difendere queste loro convinzioni questi ricercatori elaborino proprio delle giustificazioni ad hoc che, viste dall'esterno, appaiono come delle vere e proprie arrampicature sugli specchi, perché effettivamente non hanno una loro concretezza. Contemporaneamente, no, a questa difesa a oltranza delle loro idee, spesso bizzarre, spesso eterodosse, questi ricercatori maturano anche una sorta di vittimismo, cioè loro credono più o meno consciamente, no, di essere degli scienziati innovatori e di essere in qualche modo perseguitati e marginati dal resto della comunità scientifica, quindi sviluppano appunto questo vittimismo. Capita spesso, no, di sentir tirare in ballo la vicenda di Galileo, no, come esempio di scienziato perseguitato. In realtà il paragone con Galileo c'entra molto poco, perché la vicenda fu molto diversa. Ora, negli episodi di scienza patologica propriamente detta, di solito c'è totale buona fede da parte dei protagonisti, cioè questi scienziati devianti, diciamo, sono assolutamente convinti della validità delle proprie idee, quindi ci credono veramente. Però capita anche, ahimè, a volte di trovare delle vere e proprie frodi, nel senso che alcuni ricercatori mentono sapendo di mentire, addirittura in qualche caso manipolando in modo fraudolento proprio determinati dati sperimentali. La panoramica è molto vasta, ovviamente. Vi sono casi estremi di veri e propri ciarlatani, diciamo, che inventano di sana pianta determinate pseudoteorie per gabbare il prossimo, potremmo dire, però molto spesso i protagonisti di queste vicende sono dei rispettabili ricercatori appartenenti alla comunità accademica che a un certo punto della loro carriera partono così per la tangente e molto spesso appunto arrivano al punto di contraffare addirittura determinati dati appunto manipolati volontariamente. Ora, quali sono le possibili motivazioni che possono spingere alcuni ricercatori sia ad ingannarsi in buona fede, sia a cercare invece di ingannare il prossimo? Ma le motivazioni possono essere le più disparate. Come dicevo, appunto, gli scienziati in quanto uomini non sono immuni, no, da tutte le debolezze tipiche dell'essere umano, per cui possono intervenire pregiudizi, convinzioni pregresse, idiosincrasie nei confronti di qualcosa o di qualcuno, emozioni, desideri, tutte cose che solitamente si pensa non appartenere al mondo della ricerca, però inevitabilmente questi aspetti possono intervenire e avere un ruolo determinante. Tra tutte queste componenti, appunto, che potremmo definire extrascientifiche e psicologiche, come dicevo, ci possono essere motivazioni di vario tipo. Ci può essere la speranza, no, da parte di alcuni ricercatori di essere autori di grandi scoperte, ci può essere appunto un desiderio di affermazione personale, ci può essere una rivalità nei confronti di colleghi accademici e quant'altro. Molto spesso ci possono essere anche convinzioni di carattere filosofico, di carattere metafisico addirittura, che portano a un fraintendimento proprio delle osservazioni sperimentali da parte di questi ricercatori. Nel libro io, come dicevo, ho cercato di fare una sorta di antologia di quelli che ho ritenuto essere i casi più significativi. Il mio libro non ha nessuna pretesa enciclopedica, anche perché per fare una trattazione enciclopedica ci vorrebbero volumi e volumi, visto che i casi di questo tipo non mancano di certo nella storia della scienza. Io, dicevo, ho cercato di fare così una scelta di tipo antropologico, scelta inevitabilmente soggettiva, e ho cercato anche di fare una sorta di classificazione di questi episodi di scienza devianti. Infatti, nella prima parte del libro analizzo casi in cui la buona fede dei protagonisti non viene minimamente messa in discussione, quindi gente che credeva veramente alle cose che proponeva. Nella seconda parte invece ho esaminato alcuni casi proprio di frode volontaria, quindi ricercatori che mentivano sapendo di mentire. Nella terza parte ho esaminato quelle che io ho chiamato genericamente invenzioni folli, cioè si tratta di presunte invenzioni che, se fossero state vere, avrebbero completamente rivoluzionato proprio il nostro modo di vivere quotidiano. Tra l'altro, io, come espediente narrativo nel libro, mi diverto così a lavorare un po' di fantasia, cercando di immaginare che cosa sarebbe potuto accadere, no, se certe scoperte, certe invenzioni fossero state reali. In realtà erano totalmente illusorie e infondate. Nella quarta parte analizzo appunto alcuni casi di quelle che ho chiamato scoperte metafisiche, perché riguardano proprio episodi in cui le convinzioni metafisiche dei protagonisti hanno fortemente influenzato la loro attività di ricerca, quindi in qualche modo hanno contribuito, no, a generare queste false scoperte. Nella quinta parte analizzo quelle che ho chiamato teorie rivoluzionarie, perché se fossero state vere queste teorie avrebbero completamente sconvolto tutto ciò che noi sappiamo relativamente alla realtà, ad esempio, non so, dal punto di vista storico, dal punto di vista archeologico, no, anche in questo caso però queste teorie così eclatanti sono finite poi in una bolla di sapone. Infine, nell'ultima parte, ho preso in considerazione tutte quelle false teorie, pseudo teorie scientifiche che in qualche modo hanno a che fare con la medicina. è un settore particolarmente delicato, come si capisce facilmente, perché si va a giocare sulla salute, sulla pelle della gente. Giorgio sa bene a che cosa mi riferisco. Infine cerco di trarre un po' le conclusioni cercando di fare un elogio dello scetticismo, cosa che cercherò di fare anche questa sera al termine della chiacchierata. Tuttavia volevo specificare una cosa, cioè volevo sottolineare quali sono state le motivazioni che mi hanno spinto a scrivere un libro del genere. Preciso subito che non c'è da parte mia alcun intento denigratorio nei confronti dei protagonisti di queste vicende. Come dicevo, spesso si tratta di persone rispettabilissime che hanno anche dato nell'ambito della propria carriera dei contributi utili alla ricerca scientifica e improvvisamente poi per motivazioni varie hanno così imboccato una strada sbagliata. Quindi le motivazioni non sono assolutamente di tipo denigratorio. Quello che io invece cerco di mettere in evidenza nel libro è un'altra cosa, cioè sono i potenti e efficacissimi meccanismi autocorrettivi di cui la scienza fortunatamente dispone. Fra tutte le attività umane, la scienza è sicuramente quella che possiede gli anticorpi migliori proprio per difendersi da episodi devianti come quelli che io analizzo. La natura stessa della scienza non fa sì che questi episodi di falsa scienza su tempi più o meno brevi vengano smascherati per quello che sono. Questo ha a che fare anche con l'estrema importanza che gli errori hanno nell'ambito della ricerca scientifica, perché dagli errori si impara. E appunto il fatto che la scienza progredisca continuamente deriva proprio da questa sua straordinaria capacità di riconoscere i propri errori e contemporaneamente correggerli. La scienza, è sotto gli occhi di tutti, è in costante evoluzione. La scienza di oggi è ben diversa dalla scienza di non so, 50 anni fa o anche meno. Cosa che invece non accade nell'ambito delle cosiddette pseudoscienze, cioè ci sono pseudoscienze che sono uguali a loro stesse da secoli, proprio perché le pseudoscienze non hanno questi meccanismi di autocorrezione che determinano inevitabilmente un progresso. Ora, ogni affermazione scientifica per sua natura è necessariamente provvisoria. Addirittura certe le affermazioni che la scienza produce vengono ritenute vere fino a quando non vengono dimostrate false, ma questo non è un punto debole, al contrario è un punto di forza, proprio perché è la molla che consente alla scienza di progredire e di evolversi continuamente. Quindi lo scopo principale del libro è proprio mettere in evidenza questi meccanismi che caratterizzano la scienza. Io ho esaminato numerosi casi nel libro, chiaramente questa sera non abbiamo il tempo, non dico di esaminarli tutti, ma nemmeno una piccola parte, per cui io mi sono limitato a preparare 4 esempi che volevo appunto condividere insieme a voi. Il primo è un esempio di episodio di scienza deviante in cui da parte del protagonista c'era totale buona fede. Il secondo è un esempio invece anche piuttosto recente di frode scientifica bella e buona. Poi c'è un esempio in cui si fa vedere come talvolta purtroppo certe teorie pseudoscientifiche possano avere delle ricadute gravissime, drammatiche addirittura sulla società. Infine c'è un esempio proprio di pseudoscienza medica che, come dicevo, rappresenta un settore particolarmente delicato. Cominciamo dal primo caso, che è un caso ben conosciuto, diciamo che appartiene un po' ai classici della storia della scienza. Il protagonista di questo episodio di scienza patologica è questo austero signore che qui vedete raffigurato in paramenti accademici. Era un fisico di nome René Blondlot, francese, vissuto a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. Blondlot era un rispettabile professore di fisica dell'università di Nancy, in Francia appunto, E dopo una carriera assolutamente rispettabile, nel 1903 pubblicò un articolo in cui sosteneva Blondlot di aver scoperto un nuovo tipo di radiazione. In onore alla città presso la cui università lui appunto svolgeva la sua professione di docente universitario, chiamò questa ipotetica radiazione raggi N, no, N è l'iniziale di Nancy. Bisogna dire che la comunità scientifica dell'epoca era abbastanza ben disposta nell'accettare la scoperta di un nuovo tipo di radiazione, perché pochi anni prima, verso la fine del 1800, erano stati scoperti i raggi X da parte di Röntgen e era stata scoperta la radioattività da parte di Becquerel, altro fisico francese. Per cui nell'ambito della comunità scientifica venne in un primo tempo accettata, no, questa presunta scoperta fatta da Blondlot. Adesso non sto a entrare nei dettagli per spiegarvi in che modo Blondlot arrivò, o meglio credette di arrivare a questa presunta scoperta, nel libro lo descrivo, ma non è essenziale. Lui perfezionò diversi sistemi per produrre questi ipotetici raggi N e ad esempio si convinse che alcuni filamenti metallici o alcune reticelle riscaldate potessero appunto emettere queste radiazioni. Inoltre credette di scoprire anche alcune sorgenti naturali di raggi N, ad esempio lui sosteneva che il Sole stesso emettesse in discreta quantità queste radiazioni. Le proprietà di questi presunti raggi N erano altrettanto sorprendenti, perché secondo Blondlot questi raggi N riuscivano ad attraversare tranquillamente anche delle spesse lastre metalliche, viceversa venivano bloccati da materiali che solitamente sono trasparenti alla luce, quali vetro, cristalli di vari minerali, eccetera. La cosa curiosa è che dopo la pubblicazione dell'articolo nel 1903 da parte di Blondlot, altri fisici francesi condivisero i suoi risultati. Vi furono fisici di un certo rilievo, quali Charpentier, lo stesso Becquerel che ho citato prima, scopritore della radioattività, Broca, Zimmer, eccetera, ripeterono gli esperimenti condotti da Blondlot e credettero di osservare gli stessi risultati. Per cui nel giro di pochissimi anni il numero di pubblicazioni su questi presunti raggi N ebbe proprio un picco notevolissimo. Ad esempio quello che vedete raffigurato qui è il frontespizio di una raccolta, di una review, diremo oggi, di articoli proprio dedicati a questa ipotetica radiazione. Vi fu ad esempio chi, come il fisico medico Charpentier, credette di trovare una emissione di raggi N da parte di tessuti biologici, quali tessuti muscolari, tessuti nervosi, e naturalmente vi fu subito chi ipotizzò possibili applicazioni in campo medico di queste radiazioni, così come era successo ad esempio sia con i raggi X sia con le radiazioni emesse appunto da isotopi radioattivi. Naturalmente però non mancarono i guastafeste, diremo, cioè coloro che avanzarono critiche nei confronti di questa presunta scoperta, anche perché vi furono altri ricercatori che provarono a ripetere gli stessi esperimenti di Blondlot senza minimamente osservare i suoi stessi risultati. Uno dei più critici diciamo ricercatori nei confronti della presunta scoperta di Blondlot fu un fisico tedesco di nome Rubens, il quale appunto aveva provato a ripetere gli esperimenti di Blondlot senza minimamente riuscire a osservare ciò che Blondlot aveva osservato. Rubens nell'estate del 1904, durante un convegno, prese contatto con un altro fisico, questa volta americano, di nome Robert Wood, un fisico abbastanza noto, magari molti di voi hanno sentito parlare della cosiddetta lampada di Wood, che è una lampada che emette negli ultravioletti e che vedete appunto qui raffigurato. Rubens incaricò praticamente Wood di fare chiarezza su questa presunta scoperta. E Wood, che tra l'altro era un esperto proprio di ottica e di spettroscopia, quindi aveva tutte le carte in regola, diciamo, come ricercatore, di occuparsi di questa problematica, decise, dopo aver contattato lo stesso Blondeau, di trascorrere un periodo nei laboratori di Blondeau per esaminare insieme a lui appunto questi risultati così eclatanti. Bisogna aprire una piccola parentesi su Wood. Al di là delle sue validissime competenze professionali, Wood aveva degli aspetti caratteriali che facevano sì che fosse effettivamente la persona adatta per compiere questo tipo di indagine. Wood, infatti, per tutta la sua vita, fin da quando era giovane studente, fin da quando andò in pensione, fu un incalito burlone, cioè lui si divertiva da matti a fare scherzi, faceva scherzi ai suoi compagni di università, faceva scherzi ai suoi colleghi universitari, a volte scherzi anche abbastanza pesanti, giusto nel libro ne ricordo qualcuno. Come vedremo, questa sua propensione per gli scherzi ebbe un ruolo fondamentale proprio nella risoluzione di tutta la vicenda. Per farla breve, appunto, Wood trascorse un certo periodo nei laboratori di Blondeau e lui continuava a non vedere quelli che invece Blondeau sosteneva essere risultati evidenti, e in particolare durante quello che doveva essere un po' l'esperimento clou, no, a conclusione di tutta questa ricerca, Blondeau propose a Wood un esperimento in cui un fascio di raggi N veniva sparato su un prisma di alluminio e, secondo Blondeau, questo prisma doveva produrre un effetto simile a quello che noi osserviamo mandando un raggio di luce bianca su un prisma di vetro. No, voi sapete che si formano i colori dell'arcobaleno. Quindi, secondo Blondeau, i raggi N non avrebbero dovuto separarsi in raggi N di diversa lunghezza d'onda. Secondo Blondeau, questa era appunto la dimostrazione clou, no, dell'esistenza di questi raggi N. L'esperimento veniva condotto nella totale oscurità e Blondeau e collaboratori continuavano a sostenere di vedere effettivamente diversi raggi N con diversa lunghezza d'onda. Wood non vedeva assolutamente nulla. A questo punto scattò la sua mania burlona. Che cosa fece? Sfruttando la totale oscurità, lui sottrasse dallo strumento il prisma di alluminio e se lo mise in tasca, ovviamente senza essere visto da nessuno. Dopo aver sottratto il prisma, Blondeau e collaboratori naturalmente non si accorsero di nulla, continuavano a sostenere di vedere chiaramente le quattro lunghezze d'onda dei raggi N. A quel punto, no, nella mente di Wood fu chiarissima l'idea secondo la quale questi raggi N erano un parto, diciamo, della fantasia di Blondeau e di, dei suoi collaboratori, perché appunto non c'era assolutamente nessuna evidenza. Tornato nella sua università, Wood redasse un accurato resoconto di questa sua esperienza che venne pubblicato sulla rivista Nature, che è tuttora ed era anche all'epoca una delle principali riviste scientifiche a livello internazionale. Dopo la pubblicazione di questo resoconto, gran parte dei ricercatori non francesi si convinsero appunto che questa presunta scoperta dei raggi N in realtà era stato un abbaglio non solo di Blondeau, ma esteso, diciamo, anche a tutti coloro che credettero di vedere questi raggi N. La cosa però non convinse fino in fondo gli scienziati francesi, che evidentemente animati da una sorta di sciovinismo continuarono a sostenere che i raggi N esistevano. E qui scattarono, anche in questo caso, le giustificazioni ad hoc, no, di cui facevo riferimento prima, perché arrivarono quasi al ridicolo, perché sostennero che per poter osservare questi raggi N era necessaria una particolare sensibilità che solamente gli scienziati francesi possedevano. Addirittura raggiunsero veramente il grottesco. perché praticamente veniva sostenuto che, ad esempio, gli scienziati tedeschi avevano perso questa sensibilità a causa dell'elevato consumo di birra. Gli scienziati inglesi invece avevano perso questa sensibilità a causa del clima nebbioso che caratterizzava l'Inghilterra. Quindi le classiche arrampicature sugli specchi, no? Come dicevo prima. Lo stesso Blondeau rimase convinto fino alla fine di essere stato protagonista di una eccezionale scoperta, addirittura rifiutò di sottoporsi a un esperimento che venne proposto da una rivista scientifica francese che avrebbe dovuto mettere la parola fine a questo episodio. Lui non si diede per vinto, continuò fino alla fine a sostenere questa sua bizzarra idea, andò in pensione anticipata nel 1909 e morì il 24 novembre 1930 nella sua amata Nancy, assolutamente convinto che questi raggi N esistessero davvero. Lui, in totale buona fede, però non si rese conto del clamoroso abbaglio di cui fu vittima. Il secondo esempio di cui volevo farvi partecipi riguarda invece un caso di frode deliberata, quindi meno piacevole, se vogliamo, rispetto alle disavventure del povero Blondeau. Ed è un caso abbastanza recente. Si verificò infatti agli inizi degli anni 2000 e vide come protagonista questo Baldo Giovanotto. Questo Baldo Giovanotto, nato nel 1970, quindi all'epoca era poco più che trentenne, è un fisico tedesco di nome Jan Hendrik Schön, il quale studiò fisica, nato a Verden in Germania, studiò fisica e ottenne nel 1997 il dottorato di ricerca in questa disciplina presso l'Università di Costanza. Appena fresco appunto di dottorato, venne assunto dai prestigiosi laboratori Bell nel New Jersey. I laboratori Bell sono una sorta di sancta sanctorum della fisica dello stato solido. Moltissime delle scoperte e delle invenzioni tecnologiche di cui noi facciamo quotidianamente uso, da componentistica per computer, per cellulari, eccetera, provengono proprio da questi laboratori. Presso questi laboratori sono transitati numerosissimi premi Nobel, quindi un ambiente veramente di tutto rispetto dal punto di vista scientifico. Schön appunto venne assunto da questi prestigiosi laboratori e, a cominciare dal febbraio del 2000, cominciò una carriera scientifica veramente esplosiva. Venne infatti nel giro di poco tempo considerato un vero e proprio enfant prodige della fisica dello stato solido, e la sua produzione scientifica destò veramente la meraviglia di tutta la comunità scientifica, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. Qualcuno ha fatto i conti, dunque nell'arco di soli 24 mesi, tra il 2001 e il 2002, Schön riuscì a pubblicare ben 77 articoli sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, riviste tipo Nature, che ho citato prima, Science, Physical Review, quindi riviste di prim'ordine proprio nell'ambito della comunità scientifica internazionale, con una media, come qualcuno ha calcolato, di un articolo ogni 8 giorni, che è una cosa strabiliante, perché chiunque abbia un minimo di conoscenza di come funzioni la ricerca scientifica, cioè risultati del genere sono veramente incredibili, questo dal punto di vista quantitativo. Altrettanto si può dire dal punto di vista qualitativo, perché le scoperte che Schön sosteneva di aver fatto erano altrettanto eclatanti. Ad esempio, fra una delle più clamorose scoperte vi era la realizzazione di un transistor a effetto di campo molecolare. Molecolare significa che in pratica i contatti elettrici erano costituiti da singole catene molecolari, quindi immaginate, no, a quale grado di miniaturizzazione, no, ci si poteva spingere con componentistiche elettroniche di questo tipo e a quali rivoluzioni tecnologiche avrebbe portato. Questo articolo, ad esempio, venne pubblicato su Science. altrettanto clamoroso fu un altro articolo pubblicato questa volta su Nature, in cui Schön sosteneva di aver realizzato niente meno che un superconduttore organico. I superconduttori sono quei materiali che hanno praticamente una resistenza elettrica nulla. Lui sosteneva di aver ottenuto un superconduttore organico, quindi un materiale polimerico che presentava queste caratteristiche elettriche. Quindi immaginate anche qui le applicazioni, no? Perché i polimeri sono le materie plastiche con tutti i vantaggi di leggerezza, lavorabilità, eccetera. Quindi un superconduttore di questo tipo avrebbe significato una vera e propria rivoluzione tecnologica. Quindi sembrava veramente un enfant prodigio. Molti cominciarono a parlare di Schön come futuro e probabilissimo premio Nobel, finché ovviamente questa straordinaria attività scientifica inevitabilmente suscitò dei sospetti. Anche perché molti dei ricercatori che avevano cercato di riprodurre gli stessi studi, gli stessi esperimenti di Schön, non riuscirono minimamente a ottenere quelli che lui sosteneva essere i risultati. In particolare vi fu una giovane ricercatrice che curiosamente ha un cognome simile. Lei è di origine orientale, come si può vedere dalla fotografia, no? È Son, non so se si pronuncia così, mentre il protagonista è Schön. Ora, questa giovane ricercatrice era già docente all'Università di Princeton, quindi nonostante la giovane età aveva diciamo un curriculum di tutto rispetto. Notò una cosa apparentemente marginale, ma come vedremo significativissima. Lei notò che in due grafici relativi a due esperimenti che Schön sostenne di aver ottenuto a temperature differenti, vi era lo stesso rumore di fondo, il che era altamente improbabile, perché cambiando le condizioni sarebbe dovuto cambiare anche questo rumore di fondo. Ulteriori controlli nei lavori pubblicati da Schön permisero di scoprire che comparivano spesso figure, grafici, tabelle in diversi lavori che facevano riferimento ad esperimenti differenti. Questo chiaramente destò dei forti sospetti. Un'altra donna, le donne gli furono fatali, proprio direi, questa signora che era la vicepresidente dei laboratori Bell, nel maggio 2002, a causa appunto di tutti questi sospetti che si generarono intorno al lavoro scientifico di Schön, nominò una commissione d'inchiesta interna ai laboratori stessi, che venne guidata da un professore di ingegneria elettronica dell'Università di Stanford. Ora, questa commissione si mise all'opera, fece un esame dettagliato di tutta la produzione scientifica di Schön e redasse un rapporto che, ahimè, era assolutamente impietoso nei confronti di Schön. Questo rapporto venne pubblicato il 25 settembre 2002 e il verdetto fu di piena colpevolezza. Addirittura dunque emersero 24 sospette manipolazioni dei dati in tutti i lavori pubblicati da Schön, e di questi 24 casi sospetti 16 vennero diciamo smascherati con certezza, cioè per 16 di queste manipolazioni risultò esserci la totale, l'assoluta certezza che lui avesse proprio manomesso volontariamente i dati, in certi casi proprio inventandoseli di sana pianta. Di fronte a un'evidenza così schiacciante, lo stesso Schön dovette diciamo ammettere qualche colpevolezza, però lui si giustificò dicendo di essere stato distratto, di aver scambiato delle figure per un'altra, quindi cercò in qualche modo di medicarsela, come si potremmo dire. Ammise anche di aver falsificato alcuni dati, ma semplicemente per evidenziare meglio certi dati sperimentali che comunque lui sosteneva di aver ottenuto, cosa che veniva invece smentita da tutti gli altri ricercatori che avevano provato a riprodurre gli stessi dati. Insomma, per farla breve, le giustificazioni di Schön non convinsero nessuno, no? Si trattò ancora una volta proprio di classiche arrampicature sugli specchi, e per cui vennero presi pesanti, direi, provvedimenti contro di lui. Prima di tutto i laboratori Bell lo licenziarono in tronco. Nel giugno 2004 l'Università di Costanza ritirò il titolo di dottore di ricerca che gli era stato conferito a causa appunto della sua condotta disonorevole. Addirittura in occasione del ritiro, no, del titolo di dottore di ricerca, questo docente di fisica dell'Università di Costanza definì la vicenda di Schön come la maggiore frode scientifica degli ultimi 50 anni. In effetti fu un caso clamoroso, non tanto per la frode in sé, per la manipolazione dei dati fatti da Schön. La cosa clamorosa fu che tutte le riviste prestigiose che ho citato prima, sulle quali Schön riuscì a pubblicare, non si accorsero minimamente di questa manipolazione fraudolenta dei dati. Infatti questo suscitò nell'ambito delle riviste scientifiche e nell'ambito accademico una forte discussione per rivedere proprio i meccanismi, no, di peer review, come si dice, cioè di revisione degli articoli prima di procedere alla pubblicazione. Qui vabbè, ci sono riportati altri provvedimenti presi a carico di Schön, addirittura poi tutti i suoi articoli vennero ritirati dalle stesse riviste che inizialmente li pubblicarono. Ho saputo che Schön ha cambiato completamente mestiere, è stato assunto da uno studio di ingegneria e speriamo che non commetta altre malefatte, perché fu veramente una catastrofe, diciamo, per la comunità dei fisici dell'epoca. Ora, i primi due casi, no, che vi ho raccontato, tutto sommato, sì, furono clamorosi, ma le loro conseguenze per fortuna non uscirono al di fuori di quella che è la comunità accademica, tutto sommato non ebbero gravi ripercussioni sulla società civile. In alcuni casi però, purtroppo, come dicevo, ci sono stati episodi di falsa scienza che hanno avuto delle pesantissime, talvolta drammaticissime ripercussioni anche sulla società. E un caso di cui appunto volevo parlare stasera è appunto particolarmente drammatico. Diciamo il protagonista involontario forse di tutta questa vicenda di cui parleremo è questo signore. Questo signore si chiamava Francis Galton, era un rispettabilissimo scienziato inglese, vissuto anche lui a cavallo fra 800 e 900, ed era un cugino di Charles Darwin. Lui stesso era un convinto sostenitore dell'evoluzionismo darwiniano. Lui sviluppò le sue ricerche soprattutto nell'ambito della statistica applicata a problemi biologici, medico-sanitari, eccetera. E alcuni risultati che Galton ottenne furono di tutto rispetto, tant'è vero che vengono utilizzati ancora oggi. Tra l'altro Galton era uno scienziato sincero proprio a 360 gradi, cioè nel senso che lui riteneva che la propria attività di ricerca dovesse in qualche modo contribuire al benessere dell'umanità, quindi era animato da sinceri interessi filantropici. E essendo appunto un convinto sostenitore dell'evoluzione darwiniana, lui fece sostanzialmente queste considerazioni. Lui sostenne che la civiltà umana sostanzialmente impediva alla natura di esercitare la selezione evolutiva che invece riesce a esercitare, ad esempio, su altre specie animali. E secondo lui questa interferenza, diciamo, nella selezione naturale poteva causare dei danni alla stessa specie umana, per cui maturò l'idea secondo la quale l'uomo doveva intervenire per supplire appunto alla mancata azione della selezione naturale per cercare di migliorare la specie umana. E a tale scopo lui creò ex novo proprio una nuova disciplina che lui stesso definì eugenetica, dal greco, no, eu vuol dire buono e genesis vuol dire nascita. Spesso questa eugenetica venne anche chiamata darwinismo sociale, perché in pratica si tratta di applicare noi i principi dell'evoluzione biologica alle società umane. Alla base di questi ragionamenti di Galton vi era sostanzialmente un profondo fraintendimento di quello che è il vero messaggio dell'evoluzionismo darwiniano, perché Darwin non si sognò mai di stabilire delle scale di valori nell'evoluzione. Invece Galton, sbagliando appunto clamorosamente l'interpretazione delle dottrine darwiniane, immaginò che la selezione naturale avesse, per così dire, un obiettivo, che quindi le generazioni successive fossero migliori di quelle precedenti. Ripeto, dal punto di vista scientifico questo non ha alcun fondamento e si tratta proprio di un fraintendimento totale dell'evoluzionismo darwiniano. L'evoluzione biologica infatti non segue, diciamo, nessun obiettivo, no? Che ne dicano i vari sostenitori del cosiddetto intelligent design. C'è una bella immagine che i biologi evoluzionisti propongono, no, per capire quale sia l'evoluzione biologica. No, loro dicono: se l'evoluzione biologica fosse ad esempio una videocassetta, no, lasciando scorrere la quale noi assistiamo a un certo film, se noi riavvolgessimo la cassetta e la rifacessimo scorrere, noi vedremmo un film diverso. Questo sta a indicare proprio che non c'è nessun obiettivo, nessun disegno. Invece, secondo Galton, c'era, diciamo, come obiettivo il miglioramento delle specie, e lui cercò, partendo da questo errore, di applicare questi suoi ragionamenti alla specie umana. E lui elaborò quindi queste sue teorie eugenetiche e condensò, diciamo, le sue idee in questo libro che venne pubblicato nel 1869. In questo libro lui sostiene la necessità di intervenire in due maniere per migliorare, fra virgolette, la specie umana. Lui infatti sostiene la possibilità di esercitare una eugenetica positiva, che significa sostanzialmente nel favorire la riproduzione di quelli che sono considerati soggetti migliori, in modo da selezionare determinate caratteristiche. Al tempo stesso però sottolinea come in certi casi sia necessario applicare una eugenetica negativa per impedire la riproduzione invece di quelli che sono considerati i soggetti peggiori, diciamo, non adatti alla riproduzione. Ora, queste idee a noi ovviamente fanno tremare le vene dei polsi, no? Ci sembrano totalmente inaccettabili. Però purtroppo queste idee di Galton ebbero dei sostenitori anche da parte di paesi al di sopra di ogni sospetto, per esempio gli Stati Uniti, no? Da sempre considerati, insomma, la patria della democrazia, del pensiero liberale. Fra il 1907 e il 1960, quindi in epoche tutto sommato anche vicine a noi, si macchiò di orrendi crimini perché addirittura 60.000 poveri pazienti di ospedali psichiatrici vennero sterilizzati chirurgicamente proprio per impedire loro di riprodursi. Gli Stati Uniti sono purtroppo in buona compagnia. Qui ci riporta alcuni dati impressionanti. Balza subito agli occhi il dato quantitativamente eclatante della Germania, e infatti della Germania parlerò fra un attimo. Però al di là della Germania ci sono anche tantissimi altri paesi insospettabili, quali ad esempio paesi del nord Europa, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, no, che nei periodi indicati appunto praticarono queste sterilizzazioni chirurgiche sulla scia proprio delle dottrine di Galton. Dicevo che fra questi dati spicca, no, fra tutti il dato tedesco, purtroppo in Germania, nella Germania nazista, non ci si limitò alle sterilizzazioni, ma si procedette proprio alla eliminazione fisica di quelli che oggi noi chiameremo portatori di handicap. Vi fu una martellante azione pubblicitaria prima del 1938, finalizzata proprio a rendere nell'opinione pubblica accettabili le idee che il regime nazista voleva mettere in pratica. Questa propaganda fu veramente estremamente subdola, estremamente anche efficace nella sua mostruosità. Furono fatti documentari pseudoscientifici per giustificare, no, queste azioni di tipo eugenetico, ma addirittura la propaganda fu più, diciamo, subdola. Ad esempio, ai bambini delle scuole elementari venivano proposti esercizi di aritmetica di questo tipo. Si diceva, ad esempio, che un paziente degli ospedali psichiatrici del Terzo Reich costava alle casse dello Stato tot marchi. Si calcoli quanto potrebbe risparmiare lo Stato tedesco eliminando tot pazienti, cose di questo genere, proprio per far acquisire, no, queste nozioni come se fossero la normalità. E dopo, appunto, questa martellante azione pubblicitaria, a partire dal 1938 il regime cominciò a mettere in pratica queste aberranti idee. Questo folle progetto è noto con la sigla di Action T4. Questa sigla T4 deriva semplicemente dall'indirizzo Tiergartenstrasse, io non so il tedesco per cui la mia pronuncia sicuramente sarà pessima, che era l'indirizzo dove si trovava il quartier generale dell'ente che si doveva occupare di queste cose. Non ve lo leggo in tedesco perché voi sicuramente conoscete bene il tedesco, io purtroppo no, per cui vi leggo solamente la traduzione italiana, che suona come Fondazione caritatevole per le cure mediche ed ospedaliere, quindi già suona, no, terribilmente sinistro, sinistra questa denominazione. Ora, addirittura venne fondato un comitato del Reich, no, per il rilevamento scientifico di malattie ereditarie e congenite gravi, alla guida del quale Hitler mise il suo medico personale, Karl Brandt, che vedete qui raffigurato. La cosa più agghiacciante di tutte è che le prime vittime furono i bambini, perché nella logica aberrante, no, del regime nazista si pensava che tutto sommato l'eliminazione dei bambini producesse meno conseguenze, perché si pensava che i bambini non avessero ancora intessuto, diciamo, una rete di relazioni sociali sufficientemente elevata, per cui si cominciò proprio a eliminare fisicamente i bambini portatori di handicap. Naturalmente tutto questo venne fatto nella totale segretezza. Ad esempio, ai familiari dei bambini che venivano eliminati veniva detto che i bambini erano stati sottoposti a delle nuove terapie che purtroppo però avevano dato esito sfavorevole. Dopo aver cominciato l'eliminazione dei bambini si passò anche alla eliminazione degli adulti, sempre con le stesse strategie. Addirittura i medici erano obbligati a segnalare casi, appunto, di portatori di handicap, dopodiché intervenivano gli organismi di cui ho parlato prima per passare alle vie di fatto. Ora, tutto venne condotto, appunto, nella segretezza assoluta, però qualche voce inevitabilmente cominciò a circolare. Cominciarono a esserci pressioni da parte di organismi umanitari. Bisogna riconoscere, ad esempio, anche alla Chiesa Cattolica un ruolo importante, no, nell'esercitare queste pressioni, per cui questo folle progetto proseguì fino all'agosto del 1941, quando Hitler, di fronte a questa crescente opposizione pubblica, si rese conto che era l'ora di finire questa folle iniziativa. La cosa ancora più agghiacciante però è che questa esperienza che il regime aveva acquisito proprio nella eliminazione fisica delle persone verrà poi utilizzata per eliminare altre persone nella cosiddetta soluzione finale della questione ebraica, no, che è ben conosciuta. già i numeri da soli parlano abbastanza in maniera drammatica. Noi è stato stimato che questo programma Action T4 abbia causato complessivamente 200.000 vittime. Sono cose veramente impressionanti, che fanno vedere come a volte, no, certe false scienze possano veramente avere conseguenze drammatiche. C'è un ultimo caso, non so se ho il tempo, ditemi voi quanto posso continuare, se siete stufi. Dicevo, no, in apertura, che io ho dedicato proprio una parte del mio libro alle false scienze mediche, per evidenti ragioni, no? Perché quando si parla di medicina chiaramente si va a giocare sulla salute e sulla pelle della gente. E io vorrei stasera parlare di una pseudo disciplina medica che, ahimè, gode ancora oggi nella nostra società di amplissima popolarità. Si tratta dell'omeopatia. In Italia, correggimi Giorgio se sbaglio, è stato stimato che circa 9 milioni di italiani si rivolgono abitualmente a questa terapia. Saltuariamente. Continuativamente. E ci sono non so quanti medici che prescrivono ai propri pazienti rimedi omeopatici. Spesso però si parla di omeopatia senza sapere esattamente di che cosa si tratti, viene spesso confusa, no, con altre cose. Dunque, intanto l'omeopatia nasce verso la fine del 1700, in particolare nel 1790, per opera di questo signore qua. Era un medico tedesco di nome Samuel Heinemann, il quale era un medico rispettabile e anche coscienzioso, diciamo. Lui a un certo punto della sua professione medica si rese conto del totale fallimento che la medicina dell'epoca produceva sui pazienti. La medicina dell'epoca era una medicina terribilmente arcaica, antiquata, si rifaceva ancora ai vecchi insegnamenti ippocratici, galenici, per cui per qualsiasi tipo di patologia si ricorreva a quei trattamenti quali salassi, somministrazione di emetici, che vi lascio immaginare quali effetti disastrosi producessero su pazienti magari già fortemente debilitati dalla malattia da cui erano affetti. Per cui Heinemann, di fronte a questi risultati catastrofici, no, della medicina del suo tempo, a un certo punto smise di esercitare la professione medica, addirittura mandava via i suoi pazienti dicendo: guardate, io non ho nulla di buono da offrirvi. Quindi ebbe una crisi di coscienza, anche di carattere professionale, e cominciò a fare studi per conto suo e a somministrare su se stesso gli effetti di determinate sostanze, alcune delle quali appunto trovate riportate qui, tipo l'estratto di china, l'arsenico, la digitale, la belladonna, composti del mercurio e quant'altro. E facendo questa somministrazione su se stesso, lui credette di poter arrivare a una conclusione che è sintetizzata in questa frase, tratta proprio da quella che è la sua opera principale, in cui lui getta le fondamenta dell'omeopatia. Lui sosteneva appunto che tra le medicine, quella che nei suoi sintomi conosciuti sarà più simile alla totalità dei sintomi di una data malattia naturale, sarà per essa il rimedio omeopatico più adatto e più giusto. In essa si sarà ritrovato lo specifico di quella data malattia. Questa conclusione viene solitamente sintetizzata in una frase latina che suona come similia similibus curandur, cioè il simile cura il simile. Ora, ai nostri occhi già questa conclusione appare poco plausibile, non ci sono evidenze che in qualche modo la confermino. Se ci pensiamo un attimo è un po' difficile da accettare, perché ad esempio è come se uno si facesse una bella sbronza e cercasse di farsi passare la sbronza bevendo altro alcol, no? Quindi anche dal punto di vista strettamente logico qualcosa che non va c'è. Tuttavia ci sono altri aspetti che possono essere presi in considerazione. anche gli omeopati attuali partono da quelle che vengono chiamate tinture madri, che sono di solito estratti di origine vegetale, di origine minerale, di origine animale, che vengono poi trattati nel modo che vedremo fra breve. Fra le sostanze ci sono anche sostanze abbastanza repellenti, come quelle che potete leggere sulla diapositiva. Per fortuna forse gli omeopati o omeopati, non ho mai capito come si dice, sì, l'accento, io di solito dico omeopata, qualcuno dice omeopata, ma penso che sia indifferente. Dicevo, gli omeopati di oggi forse non usano più queste cose, però usano altri principi che sono forse altrettanto repellenti. Te l'avevo segnalato che non è molto, no Giorgio? Un tuo collega medico, mio amico, mi aveva segnalato questo rimedio omeopatico che è tuttora in commercio e che viene addirittura prescritto non per via orale, ma per via intramuscolare o addirittura endovenosa. Anche qui si usa, no, un altisonante latino, però penso che si capisca facilmente di che cosa si tratta. Per esempio si tratta di mucosa di vesciche dei suini, cioè dei maiali o altre amenità di questo genere, no? Quindi anche gli omeopati odierni non si fanno mancare nulla, no? Nel senso che utilizzano cose non tanto gradevoli. Comunque, al di là di questo, se queste cose avessero un'efficacia, ben vengano, uno si tura il naso, ma ricorre sicuramente a qualcosa che possa essere efficace. Tuttavia, al di là di queste considerazioni, ci sono altre considerazioni molto più forti che fanno nascere dei dubbi circa l'omeopatia. Dunque, fra le sostanze che lo stesso Heinemann aveva sperimentato su se stesso, come avete visto, ci sono sostanze fortemente tossiche, quindi composti dell'arsenico, composti del mercurio. Heinemann si rese conto di questa tossicità e cercò, diciamo, di superare il problema della tossicità diluendo queste sostanze, partendo appunto dalle tinture madri. Ora, sia Heinemann nella formulazione, diciamo, della sua dottrina, sia gli omeopati attuali procedono nell'effettuare queste diluizioni attraverso una determinata procedura. Per esempio, si parte, no, da una tintura madre di varia origine, si preleva un centimetro cubo di questa tintura madre e si diluisce con 99 centimetri cubi di quello che è il solvente. Solitamente come solvente si usa acqua distillata o al più una miscela idroalcolica. Così facendo si ottiene quella che gli omeopati chiamano prima diluizione centesimale. Dopodiché si preleva un centimetro cubo di questa soluzione diluita, si effettua un'altra diluizione di un altro fattore 100 e si ottiene quella che si chiama seconda diluizione centesimale. Ora 100% fa 10.000, quindi noi alla seconda diluizione centesimale siamo già di fronte a un fattore di diluizione pari a 10.000. E gli omeopati vanno avanti con questa trafila. È cosa assolutamente normale trovare in commercio, ad esempio presso le nostre farmacie, rimedi omeopatici che arrivano tranquillamente alla decima, alla ventesima, alla trentesima centesimale e oltre. Vi faccio notare che alla trentesima diluizione centesimale noi siamo ad un fattore di diluizione pari a 10 alla sessantesima. 10 alla sessantesima è uno seguito da 60 zeri, quindi un numero che abbiamo difficoltà a leggere o a immaginare, un numero pazzescamente alto. Ora, ai tempi di Heinemann anche la chimica era molto poco progredita, per cui dal suo punto di vista Heinemann poteva essere giustificato nel pensare che si potesse diluire, no, una soluzione senza alcuna limitazione. Però noi, per fortuna, più o meno a partire dal 1860, che è un anno importante per la chimica, perché venne tenuto il primo congresso internazionale dei chimici, noi sappiamo oggi che la materia non ha una struttura continua, noi sappiamo che la materia è costituita da molecole, le molecole sono costituite da atomi, quindi la materia ha una struttura discontinua. Questo fa sì che esistano dei limiti insuperabili alla possibilità di diluire una soluzione. Adesso non voglio entrare troppo negli aspetti tecnici, diciamo, però c'è una grandezza chimica fondamentale che si chiama numero di Avogadro, il cui valore è 602 per 10 alla 23esima, che pone proprio dei limiti alla possibilità di diluire una soluzione. Cioè, in altre parole, oltre un certo fattore di diluizione non c'è più traccia di quella che era la sostanza iniziale, perché praticamente noi continuiamo a diluire ma non è più una soluzione quella che noi abbiamo davanti, si tratta semplicemente del solvente. Qui ci si può anche divertire a fare alcuni conti, adesso vabbè, non voglio annoiarvi con calcoli che sembrano complessi ma in realtà sono piuttosto semplici. Per esempio, cioè, si può calcolare facilmente che ad una diluizione di 10 alla meno 60, quindi corrispondente alla trentesima diluizione centesimale, in un litro di questo rimedio omeopatico, chiamiamolo così, ci sono solamente 602 per 10 alla meno 37esima molecole. Ora, voi capite bene che una molecola è una entità non divisibile, perché se noi dividiamo la molecola distruggiamo la sostanza, quindi non ha senso non parlare di 10 alla meno 37esime molecole per litro. Se vogliamo possiamo fare un calcolo probabilistico per calcolare quale dovrebbe essere il volume di una soluzione di questo tipo che noi dovremmo assumere per avere la certezza di assumere una sola molecola del soluto. Questo calcolo si fa abbastanza rapidamente e si ottiene questo risultato, cioè noi dovremmo assumere 1,66 per 10 alla 37esima litri di questa soluzione per avere la certezza di aver assunto una molecola di quella che era la tintura madre iniziale. Per darvi un'idea dell'enormità di questo valore, è stato stimato che le acque di tutti gli oceani del globo terrestre sono dell'ordine di 10 alla 20 litri, quindi non basterebbero le acque di tutti gli oceani, no, per darci la certezza di assumere una sola molecola di quello che era il principio attivo. Quindi dal punto di vista chimico, no, l'omeopatia è un non senso, perché quelli che vengono chiamati rimedi omeopatici sono acqua fresca, nel senso che si tratta solo di solvente. Ora, di fronte a obiezioni di questo tipo, gli omeopati hanno poche armi difensive, perché la chimica è chimica e quindi non possono controbattere queste argomentazioni. Allora si sono inventati un'altra pseudoteoria, che è quella appunto della memoria dell'acqua. Loro dicono, sì, è vero, in questi rimedi non c'è più traccia di quello che era il principio attivo originario, però il solvente mantiene, per così dire, un ricordo di ciò che è stato preventivamente disciolto. Quindi è questa memoria fisica che in qualche maniera può esercitare un effetto terapeutico sui pazienti. Ora, questa brillante idea della memoria dell'acqua ha una sua paternità e fece la sua prima comparsa, diciamo, in ambito scientifico nel 1988, quando sulla prestigiosa rivista Nature venne pubblicato un articolo il cui titolo è quello che leggete. Questo articolo portava ben 13 firme, quindi 13 autori, di cui 6 francesi, 3 israeliani, 2 canadesi e anche 2 italiani, e il coordinatore di questa ricerca era questo signore qua, Jacques Benveniste. Jacques Benveniste era un rispettabile fino a quel momento biologo che aveva dato anche dei contributi utili alla ricerca scientifica, il quale a un certo punto della sua carriera si convinse che determinate soluzioni, anche diluite al livello che abbiamo visto prima, rappresentassero una certa attività biologica. Lui in particolare in questo articolo studiò una particolare reazione biologica che si chiama degranulazione dei basofili, che interviene ad esempio nello scatenamento di certe allergie. Cioè, in pratica, in questo articolo veniva sostenuto che soluzioni ultradiluite, no, di determinati agenti biologici presentassero ancora una certa attività. Nature, come abbiamo detto prima, è una rivista di tutto prestigio, per cui si rese perfettamente conto, no, della straordinarietà, no, di quanto veniva sostenuto in questo articolo, per cui accettò di pubblicare l'articolo, ma lo fece precedere da un editoriale scritto proprio dall'allora direttore di Nature, in cui si diceva chiaramente che i risultati presentati in questo articolo erano, diciamo, estremamente eclatanti, al limite proprio dell'incredibile. Di conseguenza, la stessa redazione di Nature avrebbe nominato una commissione d'inchiesta per cercare di controllare la veridicità di questi risultati, e i risultati ottenuti da questa commissione sarebbero stati successivamente pubblicati dalla stessa rivista. Il fatto che Nature accettasse di pubblicare questo articolo era dovuto proprio alla grande popolarità che l'omeopatia aveva già, appunto, a cominciare dagli anni cui sto facendo riferimento, quindi fine anni 80. Capite anche il perché, no? Perché se i risultati di questo articolo fossero stati confermati, avrebbero fornito proprio una base teorica all'omeopatia, per cui Nature colse, per così dire, la palla al balzo per cercare, no, di fare anche della corretta informazione relativamente all'omeopatia. Nature nominò questa commissione, di cui facevano parte ricercatori del settore biomedico. Ma la cosa curiosa è che a far parte di questa commissione venne chiamato anche questo signore qua. Questo signore qua non è uno scienziato, ma è un illusionista. È un illusionista americano di nome James Randi, tuttora vivo, vegeto e attivissimo nelle sue attività, il quale, dopo aver calcato le scene, no, per un certo numero di anni come illusionista, mise praticamente al servizio della comunità scientifica la sua vastissima esperienza in fatto di trucchi, e infatti i contributi scientifici di Randi sono stati estremamente importanti. Tanto per citarvene uno, molti di voi ricorderanno Uri Geller. Uri Geller era un giovanotto che negli anni 70 aveva fatto parlare di sé in tutto il mondo perché sosteneva di possedere facoltà paranormali. Ad esempio, lui era specializzato, non, nel piegare con la mente, fra virgolette, i cucchiaini, poi era capace di leggere il contenuto di buste chiuse e quant'altro, e addirittura era riuscito a mettere nel sacco anche degli scienziati, i quali lo avevano esaminato e avevano dovuto ammettere che Uri Geller possedesse veramente delle facoltà straordinarie. Randi, da buon illusionista, si rese subito conto che anche Geller non faceva altro che utilizzare trucchi da illusionista, e quindi contribuì in maniera determinante proprio a smontare, no, il mito Uri Geller, ovviamente perché lui conosceva bene i trucchi del mestiere, quando invece gli scienziati, ahimè, non conoscono i trucchi da illusionista. Questo per capire un attimo chi è il personaggio James Randi. Questa commissione di inchiesta nominata da Nature si recò presso i laboratori di Benveniste, esaminò accuratamente tutto il materiale di laboratorio, i quaderni di laboratorio, eccetera, e emersero subito alcune questioni, diciamo, non così cristalline. Allora, prima di tutto si scoprì che due dei ricercatori che avevano firmato l'articolo di Nature erano stipendiati dalla Boiron tramite un assegno di ricerca. La Boiron è una delle principali case farmaceutiche produttrici di rimedi omeopatici, quindi già questa era una scoperta abbastanza sospetta, perché c'era un evidente conflitto di interessi, no, diremmo oggi. Inoltre, la cosa più grave che venne scoperta è che i dati che erano stati pubblicati su Nature erano stati accuratamente selezionati, cioè c'era stata una selezione a posteriori in cui praticamente tutti i dati che non concordavano con l'ipotesi della memoria dell'acqua erano stati accuratamente scartati. Questo è un atto di fortissima disonestà scientifica, perché è chiaro che i dati sperimentali vanno accettati tutti, bisogna fare una statistica sui dati, invece lì c'era stata proprio una selezione volontaria dei dati. Probabilmente lo stesso Benveniste non era al corrente di questa manipolazione dei dati, penso che nessuno abbia mai dubitato della buona fede di Benveniste. Probabilmente lui si era fidato di questi ricercatori, i quali invece avevano manomesso proprio volontariamente i dati. Per farla breve, i risultati furono terribilmente catastrofici, no, nei confronti dell'ipotesi della memoria dell'acqua, e dunque venne pubblicato un articolo, ecco, è scritto qua, che smentiva proprio categoricamente i risultati del primo articolo, no? Già il titolo è significativo, no? I Dilution Experiment, a Delusion, no? C'è il gioco di parole fra Dilution e Delusion, e quindi questa pseudoteoria della memoria dell'acqua venne ampiamente smentita. Ciò nonostante, capita ancora oggi di trovare sostenitori dell'omeopatia che si rifanno, no, a questa improbabile memoria dell'acqua. Comunque, al di là di tutte le obiezioni teoriche che si possono fare nei confronti dell'omeopatia, c'è una domanda che bisogna farsi prima di tutte. Cioè, l'omeopatia funziona? Cioè, ha mai dimostrato di avere un'efficacia terapeutica? Se venisse dimostrata l'efficacia terapeutica dell'omeopatia, è chiaro che sarebbe un risultato eclatante, perché probabilmente ci costringerebbe a rivedere tutte le nostre conoscenze chimico-fisiche, però sarebbe sicuramente una crisi salutare per la scienza, perché la scienza progredisce proprio grazie, no, a elementi di rottura. E però chiaramente prima di accettare certe affermazioni ci vogliono prove concrete. Ora, come dicevo appunto, bisogna ricorrere, no, a sperimentazioni fatte con la massima cautela per verificare se effettivamente questi rimedi omeopatici abbiano o no un'efficacia terapeutica. Ora, per farla breve, nonostante è quello che si sente sempre sostenere dagli omeopati, l'omeopatia non ha mai dimostrato di avere un'efficacia superiore all'effetto placebo, che, come sicuramente Giorgio può spiegare meglio di me, interviene costantemente in qualsiasi atto medico. Ora, per considerare efficace una nuova terapia, questa terapia deve dimostrare di avere un'efficacia superiore al placebo, altrimenti non si può considerare una terapia efficace. Ora, tutti gli studi seri che sono stati condotti attraverso appunto quelle procedure che si chiamano in doppio cieco e quant'altro, condotte sull'omeopatia, non hanno mai dimostrato che l'omeopatia abbia un'efficacia superiore al placebo. Quindi sostanzialmente la conclusione amara, se vogliamo, alla quale dobbiamo necessariamente raggiungere è che l'omeopatia non funziona. Dico amara perché a tutti, no, piacerebbe se venissero scoperte nuove terapie efficaci, però quando l'efficacia di certe terapie non è stata dimostrata è chiaro che ci vuole la massima cautela. Salto qualche slide perché non sono essenziali, cerco di arrivare alla conclusione. Ora, come dicevo in apertura, lo scopo principale che mi ha spinto a scrivere un libro del genere è il fatto che appunto, al di là di quella che può essere la loro origine, questi episodi di scienza deviante prima o poi vengono smascherati, su tempi più o meno lunghi vengono svelati per quello che sono. E questo grazie proprio agli straordinari meccanismi autocorrettivi di cui la scienza dispone. Per sua natura, appunto, la scienza, prima di accettare una qualsiasi affermazione, pretende prove concrete a favore di questa affermazione. È chiaro che se queste prove non ci sono, o addirittura se certe affermazioni, come nel caso della omeopatia, vanno a sconvolgere delle conoscenze acquisite e confermate da tempo da parte della comunità scientifica, e va da sé che ci voglia una massima cautela prima di accettare per vere determinate affermazioni. Questa massima cautela ha un nome, si chiama scetticismo. Contrariamente a quello che a volte si sente dire, la parola scetticismo non significa affatto incredulità. Se andiamo a vedere, l'incredulità a priori è una forma di irrazionalità al pari della credulità, perché si tratta di una posizione preconcetta. Invece lo scetticismo propriamente detto significa semplicemente pretendere prove adeguate prima di accettare una certa affermazione, ed è proprio, come ho cercato di dire, ciò che caratterizza costantemente la ricerca scientifica, proprio lo stesso significato etimologico del termine. Lo skepsis in greco significa ricerca, dubbio, sta a indicare proprio questo atteggiamento mentale. Ora, io attraverso il libro e attraverso la chiacchierata di questa sera cerco di diffondere quanto più possibile questo spirito critico, questo scetticismo. Non so se i miei sforzi avranno qualche risultato, e anche se otterrò dei minimi risultati mi riterrò sicuramente soddisfatto. Io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Penso che si possa dare spazio a domande, interventi, curiosità. Passiamo il microfono? Se vuole, sì. Forse si sente. Sì. È necessario un microfono, secondo lei? Ne approfitto per bere un goccio d'acqua. Prego. Ah, vuoi un po' d'acqua, Giorgio? No, grazie. Prego, prego. Sì, volevo farle una domanda. La scienza ha tutta una serie di metodi autocorrettivi. Poco tempo fa ho letto un libro scritto da due professori di Stanford che dicevano che non sempre la scienza funziona. Per esempio nel caso della fusione fredda, perché dicevano che si è innescato un meccanismo in cui, per esempio, alcuni esperti americani di fusione fredda non studiano più quel fenomeno per paura di perdere prestigio. In certi casi la scienza è come se si intricasse. In Italia o anche in Giappone tante ricerche vengono ancora effettuate, per esempio, sulla fusione fredda. Volevo sentire il suo punto di vista. Sì, e poi la seconda domanda che volevo fare era: è ancora possibile pubblicare oggigiorno 77 articoli dopo il caso Schoen senza che le riviste internazionali tipo Nature effettuino degli esperimenti in conto proprio prima di pubblicare? Questo è un gravissimo problema. Allora, cerco di rispondere a entrambe le domande. Dunque, io ho dedicato un capitolo alla fusione fredda perché è effettivamente un caso abbastanza clamoroso di falsa scienza. La presunta scoperta della fusione fredda è stata, diciamo, diffusa non solo in ambito scientifico ma anche dai mass media generalisti giusto verso la fine degli anni 80. I primi ricercatori che credettero di aver fatto questa scoperta erano due elettrochimici di nome Pons e Fleischmann. In origine questa presunta scoperta creò un clima di estrema eccitazione all'interno della stessa comunità scientifica, perché effettivamente sembrava aprire la strada a delle applicazioni anche tecnologiche straordinarie per quanto riguarda la produzione dell'energia, cosa fondamentale per la nostra società. Purtroppo però questo entusiasmo si smorzò nel giro di poco tempo, perché quelle misure che Pons e Fleischmann sostenevano di aver effettuato non furono mai riprodotte da nessun altro, cioè tutti gli altri ricercatori che cercarono di riprodurre gli stessi dati sperimentali non ottennero minimamente i dati originari che Pons e Fleischmann sostenevano invece di aver ottenuto. Per cui si sgonfiò immediatamente questo grande entusiasmo, ormai sono passati più di 20 anni, la posizione maggioritaria della comunità scientifica è che si trattò di un abbaglio, probabilmente in totale buona fede, anche questo da parte non solo di Pons e Fleischmann, ma anche di altri ricercatori che credettero in un primo tempo di osservare le stesse cose osservate da Pons e Fleischmann. È vero quello che lei dice, ci sono ancora sparuti gruppi, direi che sono veramente pochi, gruppi di ricerca che continuano ad occuparsi di fusione fredda. Sono però minoritari, se uno va a vedere quello che loro propongono, nascono forti perplessità dal punto di vista scientifico. Le misure, i dati che loro propongono non hanno mai convinto nessuno. Il meccanismo scientifico non prevederebbe che i massimi esperti di un settore vadano in quei laboratori a confutarlo. Sono cose che sono accadute, infatti nel clima di euforia iniziale c'erano stati illustri ricercatori, illustri gruppi di ricerca che si erano buttati a capofitto in questo filone di ricerca, perché ripeto, se ci fosse stato qualche cosa di vero, anche dal punto di vista puramente economico, avrebbe avuto delle ricadute enormi. Il problema è che questi clamorosi risultati di cui tanto si parlava, nessuno riuscì a riprodurli. E non è una cosa recente, appunto, sono passati più di 20 anni. Lei pensi, al di là del mondo scientifico, ma anche pensi alle possibili applicazioni industriali. Lei pensa che se ci fosse stato veramente qualche cosa di vero in tutto questo arco di tempo, possibile che nessun gruppo industriale abbia cercato di sfruttare economicamente una scoperta del genere se fosse stata vera? Adesso c'è anche il professor Rossi. Il professor Rossi, noi lo conosciamo bene, abbiamo anche seguito alcune sue presentazioni. Non ha mai presentato alcun dato convincente, perché quando si cerca di andare a fondo a quello che lui sostiene di aver ottenuto, lui si trincera dietro al segreto industriale. Lui ha brevettato questi suoi dispositivi, no? Il famoso ECAT. Notate bene che il fatto di brevettare un dispositivo non significa assolutamente che il dispositivo funzioni. Uno può brevettare anche una cosa perfettamente inutile e non funzionante, cioè il brevetto tutela l'idea ma non garantisce il funzionamento di ciò che viene brevettato. Rossi sono anni che sostiene, no, di aver avuto già accordi commerciali con ditte produttrici, per cui continua a sostenere che da qui a breve questi suoi dispositivi verranno commercializzati. Finora nessuno li ha visti in commercio, per cui continua a posticipare l'entrata in commercio di questi dispositivi. Tra l'altro, non bisognerebbe dirlo, però viene spontaneo pensarlo perlomeno, ha dei precedenti Rossi che non depongono a suo favore. Lui era stato protagonista di una brutta vicenda industriale negli anni passati, per cui la credibilità scientifica di Rossi è molto bassa, sinceramente. Per cui quello che conta, ripeto, è l'opinione della comunità scientifica che ritiene a tutt'oggi che quella della fusione fredda sia stato un abbaglio clamoroso al pari dei raggi N, della memoria dell'acqua e quant'altro. Questo è il dato di fatto. Sarei contento di essere smentito, perché se la fusione fredda diventasse una realtà, gran parte dei problemi energetici, ambientali dell'umanità sarebbero risolti. Sarebbe una meraviglia. Però purtroppo c'era ancora una domanda che il signore aveva fatto riguardo al discorso riviste. Allora, sicuramente oggi non sarebbe possibile pubblicare come aveva pubblicato Schön. Dicevo prima che il caso Schön ha suscitato una forte autocritica da parte delle stesse riviste, proprio per cercare di rendere più efficaci i meccanismi di filtraggio prima della pubblicazione. Tesoro Galli. Grazie, signora. Alcuni giorni fa mi è capitato di leggere una copia della rivista COS. Questa rivista era edita dalla fondazione di Don Garzè dell'ospedale San Raffaele di Milano. Leggo testualmente: la rigenerazione è imprescindibile per la sopravvivenza. Per vivere ci rigeneriamo continuamente. Negli ultimi anni la medicina rigenerativa ha interpretato questo fenomeno, ha iniziato a penetrarne gli ultimi segreti. La percepita consapevolezza della validità dei presupposti scientifici su cui si basa la medicina rigenerativa ha positivamente incontrato l'impellente necessità della salute pubblica di tutto il mondo di sviluppare strategie terapeutiche più efficienti e meno costose. Rivolgo quindi le mie domande sia all'autorevole professore autore del libro che al professor De Brilla. La medicina rigenerativa è effettivamente in grado di poter coniugare gli avanzamenti ottenuti in svariate discipline scientifiche? È forse una medicina alternativa? Ha contiguità con le cure staminali? Ha contratto dei debiti nei confronti della biologia? Concludo osservando che spesso si vuole mostrare la continuità assoluta del pensiero scientifico, anche quando si presenta astratto e sublime, irraggiungibile a quasi tutti noi e alla pratica quotidiana. Personalmente mi attengo alla regola di non prestare attenzione alle patacche pseudoscientifiche spacciate con sontuosa dovizia di mezzi finanziari e mediatici. La ringrazio. Giorgio, forse tu puoi rispondere molto meglio di me. Mi pare che il signor Galli, che è un attento osservatore delle cose, abbia già concluso lui. Sono patacche pseudoscientifiche, perché dire medicina rigenerativa che cacchio cosa vuol significa, dire? Infatti. Se non definiamo cosa vuol dire, quindi lei ha già concluso. La seconda cosa, sulle cellule staminali, è un'apertura enorme di credito e probabilmente sarà un futuro molto rigoglioso che nascerà da queste, ma anche nell'ambito delle staminali ci sono delle applicazioni pratiche, potrebbe parlare bene un responsabile della lotta per le leucemie eccetera, hanno dato risultati fantastici nella lotta dei linfomi e delle leucemie, ma ci sono altri campi in cui l'impiego non ha assolutamente un minimo di straccio, quindi non è che si sia contrario al nuovo, guai se non ci fossero ipotesi innovative, ma come Silvano Fuso ha detto, a ogni ipotesi innovativa che è il sale della scienza, se no saremmo fermi ancora al carretto col somaro, però una volta che diciamo che il carretto può andare avanti senza ruote, bisogna che facciamo vedere che sto carretto cammina senza ruote, quindi la sua perplessità è più che giustificata. Sta medicina rigenerativa, se non definiamo che cos'è, è come se diciamo io sono per la libertà, ma se non definiamo cos'è libertà, io no, bisogna definirla, non è definita, e mi consenta, anche l'origine nella fondazione Don Verzè non mi sembra che sia un nome che dia sicurezza alle cose, visto quello che ha fatto sto signore. Naturalmente ho cercato l'autore dell'articolo, erano solo due sigle, il che mi ha lasciato anche un po' ricordiamoci che Don Verzè, che ha fatto un tracollo finanziario favoloso, aveva alberghi in Brasile, viaggiava con l'aereo personale e ogni tanto faceva anche messa, insomma. Professore, ma è una medicina alternativa o no? Non so che cosa sia, perché se uno non mi definisce, non so che cosa, per il momento non c'è nulla di codificato, prima si definisce, già le staminali sono molto più, le staminali sappiamo cosa sono, in alcuni casi funzionano, in altri no, vedremo, ma hanno una realtà scientifica. sono cellule che crescono, che hanno le cose, se ne sa sempre di più. Una volta bisognava tirarle fuori dall'utero, dal cordone, adesso si può tirare fuori dalla pelle. È uno spazio che avrà uno sviluppo enorme. Allora, quando diventerà applicabile, quella non sarà certamente terapia alternativa, sarà una terapia scientifica, e quando comprovata sarà benemerita e benvenuta. Per l'altra cosa non so neanche dire se è alternativa, non so che cosa vuol dire veramente, non so che cosa vuol dire. Grazie comunque. Prego. Posso chiedere? Non so, l'ordine non so quale sia. Non so chi ha chiesto per prima la parola. Volevo solo chiedere cosa ne pensa lei o il professor Gavrilla o comunque il CICAP sull'agopuntura. Mi basta anche soltanto una risposta sì no eccetera. E poi volevo solo portare a vostra attenzione un articolo della Lettura, l'inserto domenicale del Corriere della Sera del 9 giugno di quest'anno, dove si parla, dice, profeta dell'omeopatia che sfidò la medicina. E si dice che a Roma la Fondazione Negro di questo, ha allestito un museo vero e proprio, e il 17 giugno prossimo l'inaugurazione del museo da parte del Ministro della Salute dovrebbe segnare l'ultima tappa di quel pregiudizio anti-omeopatico che ancora oggi rispunta a intermittenza. Un articolo sì, lo conosciamo bene perché io e Giorgio avevamo interagito proprio in quell'occasione. Sull'omeopatia, solo so perché io per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro, ho degli amici che vanno da medici omeopatici eccetera, se parlo con loro, ho già litigato eccetera, e dico loro dal punto di vista scientifico è tutta una balla tremenda, non c'è niente, loro non gli importa assolutamente niente, quello che mi dicono è non me ne frega niente, io sono andato al medico omeopatico e sono stato bene. Ma, scusa. Ora questo appartiene un po', come dire, alla categoria del vieni e guarda quello che succede, che dal punto di vista scientifico è la cosa più sbagliata che ci possa essere. Però se esiste un effetto placebo, un'illusione, qualche cosa che li fa star bene, sì. Ma guardi, sono problemi sviluppati da tanto. Allora, se una cosa fa bene, ma perché non farla? Anche andare dalla cartomante. Però deve essere che il placebo costi poco. Il placebo, visto che farà del bene transitorio, non ritardi un approfondimento diagnostico. Terzo, non faccia sostituire una terapia di efficacia documentata che già c'è. Queste sono tre cose. E queste cose non sono rispettate. Nel momento stesso che l'acqua con ciclamino la fa star meglio e nell'ammalato terminale, ma gliela diamo noi, tutto quello che è a vantaggio del paziente, comprese le medicine alternative, in pazienti che non hanno nulla altro da fare e che gli può dare una speranza o una consolazione momentanea, va fatto, anzi va realizzato. Stiamo attenti che però ci sono due pericoli fondamentali che quelli che ho detto, che il beneficio momentaneo può ritardare pericolosamente una diagnosi precoce e che l'ideologia di uno che è convinto che comunque faccia bene non mette in atto una terapia di efficacia già documentata. La terza cosa che ha già detto Fuso prima, non c'è nessuna dimostrazione fatta in maniera rigorosa che dimostri una superiorità sul placebo. Ultima conclusione, il problema civile e di educazione sanitaria è di tirar via dalla medicina ufficiale che è piena di roba alternativa dentro. Abbiamo un sacco di medicine zavorra nella medicina ufficiale. Si tratta di tirar fuori la zavorra dalle medicine ufficiali e non di mettere le alternative dentro la medicina ufficiale. Questo è pacifico. Non c'è nessuno, ma si immagina perché mai la comunità mondiale di medici, l'80% dei medici tedeschi italiani consultati in una inchiesta fatta dal nostro assessorato, ha dimostrato che era contrario all'attivazione Merano, eccetera, se ne è sbattuto tutti quanti, hanno fatto perché elettoralmente andava bene fare il reparto. No? Questo è un discorso fondamentale, perché se andiamo al di fuori, diceva Kant, che qualcuno che si occupava di ragione ne sapeva qualcosa di razionalità, dice che se andiamo fuori dalle colonne d'Ercole della ragione, no, tutti possono dire tutto. Uno può anche dire, ma io voglio la libertà di cura, io voglio che curare la mia cancro della prostata con l'edera. Lo può fare, ma non a spese mie e a spese sue, fin tanto che non si dimostri, perché la spesa pubblica deve corrispondere, se no qualsiasi ha dell'idea, perché non facciamo pagare dalla ASL anche gli oroscopi? tutti leggono gli oroscopi. Il fatto, ma quanta gente non lo fa? Ma cosa, la maggioranza delle prove, delle prove incerte peggiora la situazione, non migliora la verità delle prove. No, e poi per quale motivo mai la comunità, gli 80% dei medici tedeschi italiani della provincia, si opporrebbe a questo per cattiveria? Abbiamo una roba che possiamo far star bene l'ammalato, che le possiamo curare, gli passa il dolore, per quale motivo si dovrebbe rifiutare di assistere l'ammalato? Ma saremmo tutti felici? Non finirò mai da ripetere, una roba di difficile trattamento della pancreatite cronica ricorrente. Se domani mi dimostri che con i fiori di Bach o con l'agopuntura si tratta la pancreatite cronica, io sarei felice perché avrei un'arma che non ho. Quindi non vestiamo di carità, il paziente deve essere rispettato. Se la bugia a fin di bene va fatta che il medico sa, che gliela dà perché altro non c'è da fare, e nessun medico serio toglierebbe la speranza all'ammalato che ha. O l'ammalato immaginario, che se va fuori senza un foglietto di cura non è contento, se proprio è irrecuperabile perché la madre è così, l'ambiente familiare, uno gli dà anche qualche cosa di fittizio, se questo è a vantaggio del paziente, ma non deve essere a vantaggio delle tasche del medico. Questo è fondamentale, perché questo è rispettare i medici, è rispettare i pazienti. Anche sull'agopuntura la situazione è uguale? Guardi, sull'agopuntura è dimostrato questo. Che nell'effetto, adesso è troppo lungo e poi noi dobbiamo anche andare via, è dimostrato che l'effetto placebo non è un effetto psicologico, si libera una ventina di mediatori chimici nel corpo, simile alla, addirittura la singola cellula nervosa può produrre eroina indistinguibile dall'eroina del commercio, libera endorfine, libera mediatori, circa una ventina di cose, fra cui hanno un'azione analgesica importante. L'agopuntura è, siccome è un placebo indotto attraverso una strumentazione, è anche un po' più forte come placebo. Però se le dicessi che in queste tre cose, agopuntura applicata secondo i punti delle yin e dello yang, ha lo stesso effetto dell'agopuntura con gli aghi puntati a casaccio, questo le dimostra che ha un effetto analgesico, perché è placebo e sviluppa le endorfine, ma non, il presupposto per cui servono i meridiani paralleli mai dimostrati è uguale. Strano, per dire che tutto è difficile, che vale la pena di studiare senza sacenza come ha dimostrato lui, perché quello che crede di soprattutto, noi siamo contrari a chi pensa che la scienza non sbaglia mai, l'ha detto mille volte. Tenga conto che l'agopuntura ha lo stesso effetto energetico se falsa o se vera, però se applicata attraverso meridiani paralleli si attivano certe aree cerebrali con la risonanza magnetica. Quella falsa ha lo stesso effetto analgesico, ma non si attivano queste aree. Quindi ci sono delle cose da scoprire. Noi siamo, tanto è vero che nessuno si ricorda, ormai la sigla è notoria agli esperti dell'AMO, l'asse cervello-intestino. Cervello-intestino liberano circa 20 ormoni uguali, identici. Il cervello è una grande ghiandola endocrina e l'intestino è una grande ghiandola endocrina. Lei capisce che, tanto è vero, sappiamo tutti noi che se abbiamo mal di pancia, lui ha mal di pancia, ma mentre fa la sua splendida relazione, il mal di pancia lo sente meno. Perché in un certo punto si libera delle cose, un'intensa felicità per il momento ti fa passare il dolore. Poi ci sono tante cose che non sono, ma una volta si pensava che l'effetto placebo e quindi le alternative avessero un effetto puramente psicologico, adesso si sa che sotto effetto placebo è come si sa se lei ha l'estrazione del dente del giudizio e lei ha il dolore, lei fa un effetto placebo e ha un'azione simile all'anestetico, un po' meno, ma simile. Se lei mette dentro il corpo un inibitore delle endorfine, che è il naloxone che si usa per la disassuefazione di tossicodipendenti, l'effetto placebo sparisce. Questo le dimostra che sotto effetto placebo il suo cervello, in particolare il suo midollo, produce delle sostanze che possono essere inibite da altre sostanze. Quindi dire, sai perché gli omeopati e gli altri si offendono quando si dice che è un effetto placebo? Perché non sanno cos'è l'effetto placebo. E neanche nei libri della trattatistica classica, va a trovare adesso l'ultimo libro, sull'effetto placebo c'è una mezza colonnina. Mentre ci sono dei contributi, in particolare delle scuole italiane, la scuola di Torino, sono dei contributi straordinari. Quando mi dicono, sì, ma anche nelle vacche, ma è dimostratissimo che l'effetto placebo degli animali è fondamentale, perché i riflessi condizionati degli animali sono anche peggio, i bambini, ma anche i bambini, ma i bambini sono i placebo, i risponditori di placebo meglio degli adulti. Lei sa che, per esempio, chiudo, vacche che producono poco latte, gli si dà l'ossitocina nella culatona della vacca e cominciano a produrre tanto latte. Producono latte, dopo 3 mesi di trattamento con ossitocina con aumento di produzione di latte, non si sospende, si sospende. Si continua a mettere l'ago nel sedere della vacca senza più ossitocina. Questa continua a produrre latte. Ma cosa ci basta? Non lo sapevo neanche io. Voi sapete tutto.